GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Riforma della legge elettorale, se ne parlerà all'inizio della prossima settimana nel vertice di maggioranza convocato dal presidente Fedriga. Secca la replica dell'opposizione che parla di golpe. 2100 dimissioni volontarie di medici e infermieri in 4 anni, imponente il ricorso ai medici gettonisti, la sanità locale sotto accusa da parte dell'opposizione ma anche dall'autorità nazionale anticorruzione. Le nuove tariffe del consorzio di bonifica della pianura friulana, per le quali i sindaci dei comuni coinvolti chiedono la sospensione. Dopo l'incontro di ieri con i vertici, oggi il confronto con i cittadini in un'assemblea pubblica dai toni accesi. Lo sportello antimobbing di Gorizia ha fatto un bilancio del lavoro svolto nel 2023. In aumento i colloqui con i professionisti del team, in particolare per avere supporto legale. L'Associazione Nazionale delle Famiglie Adottive Affidatarie si estende in Friuli con un nuovo gruppo, oltre quello di Trieste, che farà da supporto alle famiglie adottive del territorio di Udine e provincia. Fine settimana l'insegna della variabilità. Da sabato pomeriggio niente più nebbie, ma resterà una nuvolosità diffusa e temperature ancora alte. È la giornata di Millumino di meno, la campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico e sugli stili di vita sostenibili. Diverse le iniziative in programma in regione. A Sacile organizzati giochi sul tema della crisi ambientale e del risparmio energetico, al centro diurno per i disabili e alla residenza protetta. Le 12:31 minuti e 45 secondi, ancora un buongiorno da Giorgio Bearz e Livia Liberatore, che condurranno questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di venerdì 16 febbraio. In apertura dunque la politica, con la polemica sull'ipotesi del terzo mandato per i governatori delle regioni, che vede protagonisti con un botta e risposta il presidente del Veneto Luca Zaia, esponente della Lega, favorevole all'emendamento nel testo della commissione per la riforma, e il ministro Luca Ciriani di Fratelli d'Italia, che si dice invece contrario a nome del suo partito. E di riforma della legge elettorale si parlerà all'inizio della prossima settimana nel vertice di maggioranza convocato dal presidente Fedriga. Secca la replica dell'opposizione, che parla addirittura di golpe. È fissato per lunedì pomeriggio nel Palazzo della Regione il vertice di maggioranza convocato dal presidente Massimiliano Fedriga, in cui si parlerà anche di legge elettorale e, tra le altre cose, del possibile allineamento del voto di tutti i comuni al 2028, anno in cui si tornerà alle urne per rinnovare l'aula e scegliere il governatore. All'appuntamento sono stati invitati anche i capigruppo del Consiglio. L'annuncio dell'incontro, che tuttavia non dovrebbe essere risolutivo, è arrivato dalla voce dello stesso Fedriga. Secca la replica all'opposizione, che con un comunicato congiunto ieri aveva parlato di golpe e di riduzione della democrazia in merito alle indiscrezioni di stampa emerse. Mi sembra particolare che l'opposizione parli addirittura di golpe sulle elezioni dei comuni. Oltretutto su ipotesi che sono state scritte sui giornali, anche io ho letto sui giornali, ma che ricalcano quanto ha fatto per esempio la provincia di Trento e la provincia di Bolzano quando governava la sinistra. Ancora non c'è un testo di legge, ma tra le ipotesi in campo figura l'abbassamento della soglia di elezione al primo turno per i sindaci dei comuni più grandi dal 50 al 40%, una norma che avrebbe impedito il ballottaggio a Udine l'anno scorso e avrebbe garantito la vittoria di Pietro Fontanini. Si parla poi di permettere il terzo mandato ai sindaci tra i 5 e i 15 mila abitanti, come previsto peraltro dalla nuova legge nazionale. Terzo mandato per la presidenza della regione, che Fedriga non esclude possa essere concesso solo in Friuli Venezia Giulia nel caso in cui non passasse a Roma, tema caldo di questi giorni che sta creando più di qualche tensione nel centrodestra. Restano aperti altri temi come la doppia preferenza di genere per il consiglio regionale. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. La FP CISL ha incontrato l'assessore Riccardi per discutere la questione delle RAR, le risorse aggiuntive previste per il personale della sanità del Friuli Venezia Giulia, che mancano all'appello per gli operatori di Asugi e Burlo Garofolo. Nessun lavoratore della sanità perderà un euro nel 2024, ha rassicurato Riccardi, che ha promesso la copertura economica per l'anno in corso. Nell'incontro la CISL, oltre al ripristino di queste risorse, ha chiesto di iniziare a lavorare su un regolamento di livello regionale che definisca in modo equo quelle prestazioni dei lavoratori della sanità che si aggiungono alla retribuzione vera e propria, come il richiamo di personale in servizio per assenza dei colleghi o le maggiorazioni dei turni. 2100 dimissioni volontarie di medici e infermieri in 4 anni, imponente il ricorso ai medici gettonisti, la sanità locale è sotto accusa da parte dell'opposizione ma anche dall'autorità nazionale anticorruzione. Di questo ci parla Anna Vitaliani, che è qui con noi in studio. Sì, si tratta di un fuggi-fuggi di medici e infermieri dalla sanità pubblica del Friuli Venezia Giulia. Negli ultimi 4 anni, su 21.000 dipendenti, 2.100 se ne sono andati volontariamente. Non si sta parlando di persone andate in pensione, precisa il consigliere regionale Nicola Conficoni del PD, che ha chiesto e ottenuto l'accesso agli atti dalla Direzione Regionale Salute. Sono persone, dice Conficoni, che scappano nel privato e che invece noi potremo trattenere con giusti incentivi. Conficoni fornisce i numeri del fenomeno, che è andato via via peggiorando. L'anno nero sarebbe il 2022 con 588 fuoriuscite, 65 lo scorso anno. La regione, denuncia Conficoni, sta consegnando la sanità ai privati. Bocciate dall'assessore alla sanità Riccardi, dice Conficoni, tutte le nostre proposte per trattenere e premiare il personale che resta, dai premi fedeltà fino a 400 euro al mese in busta paga per chi si impegna a restare 5 anni, appartamenti a uso foresteria per chi arriva, oppure incentivi economici a infermieri e medici di famiglia in formazione che poi rimangono. E se di pochi giorni fa la notizia della necessità di dare in appalto a privati pronto soccorso di Udine, San Daniele e Palmanova, è uscito anche un nuovo report da parte dell'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, che a livello nazionale ha fatto il punto sull'utilizzo dei medici gettonisti e quantifica a livello nazionale in 1 miliardo di euro speso per pagare queste prestazioni a gettone. Per il Friuli Venezia Giulia, la nostra regione si trova al 6° posto per ricorso all'uso di gettonisti ed ha pagato in 5 anni, secondo l'ANAC, 57 milioni di euro per pagare queste prestazioni. Abbiamo chiesto un commento su questo e anche sulla fuga dei sanitari all'assessore Riccardi, che dovrebbe arrivare entro il telegiornale delle ore 14. A te. Grazie ad Anna Vitaliani. E si discuterà di sanità pubblica a Gorizia in un incontro aperto alla cittadinanza. Nonostante il servizio sanitario abbia un bilancio in crescita, affermano gli organizzatori del coordinamento salute FVG, i servizi offerti sono sempre più inadeguati. Le liste di attesa si allungano e 3.300 persone a Gorizia sono senza medico di base. Se ne discuterà alle 18 nella sala incontro a San Rocco. E torniamo a occuparci delle nuove tariffe del consorzio di bonifica della pianura friulana, per le quali i sindaci dei comuni coinvolti chiedono la sospensione. Dopo l'incontro di ieri con i vertici, oggi un incontro pubblico dai toni piuttosto accesi è stato organizzato alla Camera di Commercio da consumatori attivi. Rabbia e frustrazione nell'incontro tra il consorzio di bonifica pianura friulana e i cittadini, ai quali sono arrivate le richieste di versamento degli oneri entro il 29 febbraio. Un momento organizzato da consumatori attivi che nelle intenzioni doveva essere chiarificatore per capire soprattutto con quali criteri sono stati individuati 3.483 nuovi avvisi di versamento dopo la redazione del nuovo piano di classifica, un documento obbligatorio redatto con la consulenza dell'Università di Udine, alla base delle attività dell'ente e che indica le zone di intervento anche per mitigare i rischi di allagamenti ed esondazioni. Il vecchio perimetro del documento, disegnato su carta quasi 20 anni fa, impediva la gestione efficace dei corsi d'acqua, è stato sottolineato, e non considerava i bacini idraulici, ed è stato quindi allargato. Difetto di tutta la vicenda, però, secondo i cittadini, è stata una comunicazione non adeguata agli standard moderni. Il consorzio si è difeso, citando la 50ina di assemblee a 2 ordini del giorno, uno dei quali il piano di classifica, rivolte a sindaci e amministratori comunali. Perché le amministrazioni, ha affermato anche Barbara Puschiasis, presidente di Consumatori Attivi, a loro volta non hanno comunicato la cosa ai cittadini? Tuttavia non sono mancate lamentele anche per la difficoltà nel reperire le informazioni sul sito internet del consorzio e un linguaggio eccessivamente burocratico usato nelle comunicazioni. Il canone è considerato sull'immobile e l'ente ha stilato dei criteri per stabilire il da farsi quando, per esempio, ci sono più persone titolari di un diritto reale. Dopo aver letto tutte le carte, però, ha risposto una cittadina, non sono riuscita a capire come è stata calcolata la mia categoria catastale e quanto devo pagare. La consigliera regionale PD Emanuela Celotti ha presentato un'interrogazione che verrà discussa la settimana prossima. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia. L'Associazione Nazionale delle Famiglie Adottive e Affidatarie ANFA si è estende in Friuli con un nuovo gruppo, oltre a quello di Trieste, che farà da supporto alle famiglie adottive del territorio di Udine e provincia. La nuova rete nasce proprio mentre le adozioni internazionali vivono un periodo di rallentamento dovute alle difficoltà di tutto il processo. Il gruppo Friuli sarà presentato domani alle 10 nella biblioteca di Campo Longhetto, nella frazione di Bagnaria Arsa. Ne abbiamo parlato con la referente Guia Ceretti. Il gruppo ANFA Friuli nasce proprio da un desiderio proprio di coppie adottive che si sono trovate, diciamo così, sulla strada dell'adozione con un'insofferenza, no? Perché proprio nel momento in cui si costruisce la propria famiglia insieme ai propri figli, ai propri bimbi o ragazzi, abbiamo trovato un vuoto e l'adozione è una strada che non si percorre da soli, no? Sono indispensabili più figure. I servizi sul territorio sono stati presenti e sono presenti, però non riescono a sostenere, no, completamente le famiglie. Sul nostro territorio mancava proprio quel luogo dove ci si possa confrontare e sostenere fra noi. Quali sono le difficoltà che affronta chi adotta? Parliamo sia del periodo preadottivo, che possono essere appunto lì reperire le informazioni, l'attesa, ecco. E poi c'è un post-adozione, no? Che per definizione il post-adozione è da quando il bimbo entra nella tua famiglia, si intende fino ai 18 anni, ma in realtà così un post-adozione ci mancherebbe, come la genitorialità dura tutta la vita. Non è come un libro bianco che tu inizi a scrivere, è un libro che ha già alcune pagine scritte e non essendo scritte da te, papà e mamma, con il figlio, è ovvio che c'è un momento di adattamento, soprattutto da parte, insomma, dei bimbi, no? Quindi in post-adozione c'è bisogno di continua formazione anche su temi particolari e la famiglia deve essere sostenuta. Il nucleo interventi speciali della Polizia Locale di Trieste, incaricato del controllo sul degrado urbano, ha pubblicato il resoconto degli interventi effettuati a gennaio. Tra questi, una lite in Piazza Goldoni, notata durante un pattugliamento e sedata dagli operatori, e il soccorso prestato a una donna importunata da uno stalker che la perseguitava da tempo. A gennaio sono state inflitte 31 sanzioni al regolamento di polizia urbana, di cui 16 per mendicità, 12 per bivacco, 7 per detenzione di sostanze stupefacenti, 4 per cani senza guinzaglio. E lo sportello antimobbing di Gorizia ha intanto fatto un bilancio del lavoro svolto nel 2023. Sono in aumento i colloqui con i professionisti del team, in particolare per avere supporto legale. Nel 2023 sono cresciute del 30% le persone che si sono rivolte allo sportello antimobbing di Gorizia. Dagli 80 utenti dell'anno precedente si è infatti passati a 104, segno di una sempre maggior conoscenza del servizio. Teresa Dennetta, coordinatrice Centro Antimobbing Gorizia. Quello che è vincente è stata la rete che ha diffuso l'informazione dell'esistenza del punto di ascolto, la sinergia con tutti i sindacati, ma soprattutto con i medici di base. Sul totale degli utenti dello sportello, il 63% sono state donne. Se si guarda all'età, la maggior parte ricade nella fascia degli ultracinquantenni, il 39%, e in quella tra i 40 e i 50 anni, il 30%. Da rilevare però la crescita percentuale dei casi nella fascia 31-40 anni, passati dal 17 al 25% del totale. Nella fascia di 31-40 abbiamo il 65% donne e il 35% uomini. È quella fascia della maternità, della necessità per la donna di sostenere la famiglia. Sono proprio i fattori socio-anagrafici. Al centro si rivolgono per la grandissima parte, oltre 9 su 10, lavoratori con contratto a tempo indeterminato e i 2/3 degli utenti sono impiegati nel settore privato. A compiere le molestie, invece, quasi sempre sono i superiori, indipendentemente dal genere. Le denunce, infatti, chiamano in causa tanto i maschi che le femmine. Le principali ragioni di disagio lavorativo riguardano i mutamenti aziendali, fattori sociali e anagrafici e le richieste di congedi o permessi, con molestie che ricadono in diverse tipologie. Le umiliazioni e critiche, la discriminazione sia di genere che di orientamento sessuale e soprattutto l'eccessivo controllo, che è cresciuto in maniera esponenziale dall'11% al 24%. Gorizia, Daniele Lettig, TGR Friuli Venezia Giulia. Buone notizie per gli appassionati degli sport invernali, perché anche in questo fine settimana saranno operativi tutti gli impianti sciistici della regione, nonostante le alte temperature e le forti precipitazioni piovose della scorsa settimana. I tecnici di Promoturismo FVG sono riusciti a gestire, attraverso un piano articolato di interventi, la situazione neve sulle piste, ridotte in alcune aree a vere e proprie risaie, e ad agire con mezzi battipista e personale altamente specializzato per il loro ripristino. E allora adesso vediamo qual è la situazione al momento del meteo, che vede il cielo in genere poco nuvoloso su tutta la regione, con nebbia sulla costa. Queste le temperature registrate poco fa: a Trieste 7 gradi e 5 decimi, a Pordenone 8 gradi, a Udine 11 gradi e 5 decimi, a Gorizia 12 gradi e 5 decimi, a Sappada 7 gradi e mezzo, a Piancavallo 8 gradi e 5 decimi, 9 gradi, anzi scusate, meno 9 gradi a Tarvisio, a Foni di Sopra e Tolmezzo 10 gradi. Sul Monte Lussari 5 gradi e 5 decimi, Monte Zoncolan 7 gradi, a Lignano 5 gradi. Sentiamo ora che tempo è previsto per il fine settimana con il previsore dell'ARPA regionale Gabriele Fasano. Il tempo nel fine settimana sarà caratterizzato prevalentemente da variabilità. Nella giornata di sabato avremo una prima parte di giornata ancora con cielo poco nuvoloso, poi dal pomeriggio sarà probabile un aumento della nuvolosità, dapprima con nubi medio-alte che poi si faranno un po' più basse. Comunque non ci aspettiamo delle precipitazioni nella giornata di sabato. Domenica avremo probabilmente una giornata ancora con variabilità, con prevalenza di nubi anche basse, o comunque medio-basse. Sarà una giornata in cui non ci aspettiamo precipitazioni, ma comunque con temperature che saranno piuttosto alte, sia nei valori minimi sia nei valori massimi. Per quanto riguarda l'inizio della settimana, lunedì sarà ancora una giornata caratterizzata da variabilità, con nuvolosità appunto variabile un po' su tutta la regione. Martedì invece ci aspettiamo una giornata, al momento pare una giornata più soleggiata, con aria più secca un po' a tutte le quote. Per quanto riguarda la possibilità di nebbie, sarà ancora possibile la formazione di nebbie nella prima mattina di sabato, poi nei giorni successivi invece questa possibilità non sarà più presente. E con una rettifica sulle temperature che abbiamo dato poco fa, a Tarvisio la temperatura al momento è di 12 gradi. E a causa degli alti livelli di inquinamento previsti per i prossimi giorni, da oggi fino a nuova comunicazione a Pordenone e negli altri 13 comuni che vi aderiscono tornano in vigore le misure previste dal piano antismog, e dunque riduzione delle temperature negli edifici, stop al riscaldamento a legna e divieto di accendere fuochi all'aperto. Andiamo avanti e parliamo di un ente formativo fondato dalle suore salesiane negli anni 50, presente a Trieste, e grazie al quale migliaia di ragazzi hanno trovato in modo gratuito la propria strada professionale. Per primi in Friuli Venezia Giulia hanno fondato un'impresa formativa, e sentiamo allora nel prossimo servizio di che cosa si tratta. All'apparenza una panetteria come tutte le altre, con i bilanci da tenere in ordine, i lavoratori in regola, i fornitori da gestire, ma a ben vedere è molto diversa e unica in regione. Questa infatti è un'impresa formativa gestita dal Centro Italiano Opere Femminili Salesiane, uno dei 12 enti formativi accreditati dalla regione. Roberto Rudol, responsabile del progetto CLIC. Il nostro obiettivo è proprio quello di dare, arricchire il curriculum di questi ragazzi in maniera tale che possano più facilmente trovare lavoro un domani, no? I ragazzi escono dalla scuola e spesso non hanno gli strumenti, non hanno per poter immediatamente impiegarsi. Ecco, l'impresa formativa vuole proprio dare a loro questi strumenti, magari in qualche periodo, mese di lavoro, per poter poi andare operativamente a cercare lavoro sul territorio. Qui, a partire dagli anni 50, le suore salesiane formavano le segretarie. Oggi il CIOFS è frequentato da più di 230 ragazzi e ragazze che dopo le scuole medie ottengono un diploma professionale in amministrazione oppure commercio, turismo o informatica. Oltre il 92% dei diplomati trova lavoro o continua a studiare. Luca Codega, direttore del CIOFS Trieste. L'impresa formativa è una modalità, diciamo, alternativa, aggiuntiva alle esperienze che i ragazzi possono fare durante i percorsi scolastici di alternanza scuola-lavoro, come si dice adesso. È un'esperienza che noi abbiamo progettato da un paio d'anni e che rivolgiamo principalmente a due categorie, sia gli allievi che svolgono i percorsi che sono di istruzione e formazione professionale, quindi diciamo fascia delle superiori, finanziati dalla regione in collaborazione con gli altri enti, sia anche ai ragazzi che escono dai nostri percorsi, ex allievi a cui offriamo delle opportunità di inserimento lavorativo e di lavoro vero e proprio. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. I carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale di Udine hanno restituito all'Ambasciata del Brasile un esemplare di pesce fossile estinto, classificato come bene culturale paleontologico, di provenienza illecita. La riconsegna del reperto, risalente a circa 110 milioni di anni fa, è avvenuta a dicembre a Roma, al termine di un'indagine coordinata dalla Procura di Pordenone. Il fossile è stato sequestrato nell'ambito di un monitoraggio dei siti di e-commerce volto a ricercare i beni culturali illecitamente detenuti da privati cittadini che li pubblicano in vendita. Le indagini hanno messo in luce che il detentore del bene, un uomo residente a Pordenone, ignaro del valore culturale del fossile, l'aveva acquistato in un negozio di oggettistica della provincia. Il reperto è risultato sprovvisto di documentazione che ne comprovasse la lecita esportazione dal Brasile. E oggi la giornata di Millumino di meno, la campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico e sugli stili di vita sostenibili promossa da Caterpillar, Rai Radio 2, con l'invito a pedalare, rinverdire e a spegnere le luci. Diverse le iniziative in programma in regione, a Trieste dalle 18.30 alle 20 si spegneranno le luci della facciata del municipio e di altri edifici del centro, a Gorizia quelle del castello. A Sacile organizzati giochi sul tema della crisi ambientale e del risparmio energetico al centro diurno per i disabili e alla residenza protetta. Alla giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili Mi illumino di meno partecipa anche la casa di riposo di Sacile, in mattinata con cruciverba e giochi a tema natura e questa sera con una cena a lume di candela. Piccoli gesti per essere parte del cambiamento, dicono anche da anziani. Rossano Masete, direttore della residenza protetta per anziani del comune di Sacile. Con la cooperativa Itaca di Pordenone, che gestisce il servizio, abbiamo deciso da anni anche noi di seguire, non direi di sensibilizzare gli anziani, perché erano già sensibilizzati. È qualcosa di ancestrale e che c'è proprio nel DNA dei nostri anziani. Facciamo una bellissima cosa, che è una cena a lume di candela. E noi stiamo sensibilizzando i nostri anziani come? Con dei cruciverba che stanno facendo adesso, con una tematica naturalmente sulla natura. Abbiamo coinvolto anche il centro disabili qui di Sacile, proprio in un abbraccio intergenerazionale che c'è tra questi anziani e i portatori di handicap. È chiaro che è un segnale, perché naturalmente noi siamo una piccola struttura, 86 posti letto, ed è un segnale, ma è un segnale che vogliamo lanciare come una piccola fiaccola per dire a tutti quanti: possiamo veramente ridurre questo impatto e cambiare. Guarda caso, noi partiamo dagli anziani. Sarebbe bello partire dai giovani. Gli anziani capiscono benissimo questa tematica. Sacile, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Un viaggio a Tarvisio in Friuli Venezia Giulia. Lo percorrono Massimiliano Ostini e Giulia Capocchi con Lino Zani nel prossimo appuntamento con Linea Bianca, in onda domani, sabato 17 febbraio alle 14 su Rai 1. Sarà il tarvisiano l'argomento portante della puntata di Linea Bianca, la storica trasmissione di Rai 1 dedicata alla montagna invernale, che andrà in onda sulla rete Ammiraglia della Rai sabato 17 febbraio alle 14. Una produzione televisiva di altissimo livello tecnico che ha impegnato per 4 giorni una ventina di tecnici sotto la guida della regista Eleonora Nicoli. Raccontate le peculiarità di un territorio a 360 gradi. Massimiliano Ossini, conduttore di Linea Bianca. Partiremo dalla montagna più alta delle Alpi Giulie, quindi dal Montasio. Racconteremo anche uno dei formaggi tipici proprio di questa zona, con un disciplinare molto chiuso che è proprio il Montasio. Però la particolarità della puntata di Linea Bianca dedicata a Friuli Venezia Giulia è una puntata in cui andremo a raccontare spesso la rinuncia da parte di ragazze e ragazzi del Bachmann, che hanno dovuto studiare, che hanno dovuto allenarsi per raggiungere gli obiettivi. Evidenziato l'aspetto paesaggistico delle montagne che circondano Tarvisio. Morbide, dolci, accoglienti, perché sono montagne impegnative, ma allo stesso tempo il territorio fa sì che qui l'ospite, perché non è il cliente, venga abbracciato, venga accolto. Focus sul borgo del Monte Lussari, simbolo di un'unione tra i popoli di etnia latina, slava e germanica, attraverso Lino Zani, storico maestro di sci di Papa Wojtyła. L'ultima sua apparizione pubblica in un in Sala Nervi, e addirittura da qui, sul Monte Lussari, c'era il coro, la solista sul Gran Sasso e l'orchestra, abbiamo fatto l'inno alle vette. Il messaggio che lanciò fu proprio le montagne di pace. Tarvisio, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. E fra gli appuntamenti in regione, ricordiamo oggi a Trieste, alla libreria Ubik, la presentazione del romanzo dal titolo La stella della solitudine di Bletana Hamzai alle 18. Una serata di approfondimento sulla recente scomparsa dello sciacallo dorato in Val Resia, organizzata dal Parco Naturale delle Prealpi Giulie, nella sala consiliare del Comune di Resia alle 20. Lo spettacolo Venere Nemica, scritto e interpretato da Drusilla Foer, fa tappa al Teatro Verdi di Gorizia, un racconto tra tragedia e commedia ispirato alla favola di amore e psiche, alle 20.45. Lo spettacolo dell'attore toscano Paolo Händel, Niente Panico, diretto da Joelle Dix, andrà in scena alle 20.45 a Teatro Orsaria di Premariacco. Il Lago dei Cigni, interpretato dal Balletto di Roma, arriva al Teatro Marcello Mascherini di Azzano Decimo alle 21. Ed è tutto per questo appuntamento con l'informazione, che è stato redatto e condotto da Livia Liberatore e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Bruno Montevecchi e di Mauro Cumin. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi e Samantha Gon. Grazie dell'attenzione, a tutti un augurio di buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.